lasci sognare nel mio passato. E costante ritorna il tuo sguardo, mi ferisce il tempo trascorso, che come un maestro severo lo castiga l'inganno. Ma ti prego, mi scuso, mi posto, no, io non volevo, non capivo, non c'ero dov'ero, ma non mi nascondevo. Voglio stare con te, e il mio amore si è fatto bugia, le parole il tempo le ascolta, poi ti lascia andare se almeno vivere il tuo mio. Ma le ha scritte su solida pietra, le ha murate in tempio di marmo, e come già aspetta, sa che il tuo destino di tornare nel tempio di marmo, i ginocchi sulla panchina. Voglio stare con te, e tu dormi nel nostro mare, che non faccio un passo di mio amore, sto per